Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Il temporale scoppiò verso le 10. Milady si sentiva quasi consolata nel vedere che la natura prendeva parte al tumulto del suo animo. La folgore scoppiava nel cielo come la collera nella sua mente. Le pareva che la raffica, passando, scarmigliasse i suoi capelli sulla fronte come gli alberi di cui curvava i rami e rapiva le foglie. Ella urlava come l'uragano e la sua voce si perdeva nella grande voce della natura, la quale anch'essa sembrava gemere e disperarsi. A un tratto sentì battere un vetro e al bagliore di un lampo vide il volto di un uomo apparire dietro le sbarre. Corse alla finestra e l'aprì. «Felton!» esclamò. «Sono salva!» «Sì», disse Felton, «ma silenzio, silenzio! Mi occorre del tempo per segare le sbarre. Attenzione soltanto che non vi vedano dallo sportello!» «Oh, è una prova che il Signore è con noi, Felton!» rispose Milady. «Hanno chiuso lo sportello con un asse!» «Bene, Dio ha tolto loro il senno!» disse Felton. «Ma cosa devo fare?» domandò Milady. «Niente!» «Niente, soltanto chiudere la finestra, coricatevi, o perlomeno mettetevi a letto vestita, quando avrò finito batterò ai vetri, ma riuscirete a seguirmi?» «Oh sì, la ferita mi fa male, ma non mi impedisce di camminare. Allora tenetevi pronta al primo segnale.» Milady richiuse la finestra, spense la lampada e, come Felton le aveva raccomandato, andò a rannicchiarsi nel letto. Fra i gemiti della bufera sentiva lo stridio della lima sulle sbarre e al bagliore di ogni lampo scorgeva l'ombra di Felton dietro i vetri. Ella trascorse un'ora trattenendo il respiro, ansante, con il sudore sulla fronte e il cuore stretto da un'angoscia spaventevole a ogni movimento che udisse nel corridoio. Ci sono ore che durano un anno. Dopo un'ora Felton picchiò di nuovo. Milady balzò dal letto e corse ad aprire. Due sbarre di meno formavano un'apertura che permetteva il passaggio di un uomo. «Siete pronta?» chiese Felton. «Sì, devo portare qualcosa con me. Dell'oro, se ne avete. Sì, per fortuna mi hanno lasciato quello che avevo. Tanto meglio, perché ho speso tutto il mio per noleggiare un'imbarcazione.» Non c'era da perdere un secondo. Milady passò le braccia intorno al collo di Felton e si lasciò scivolare fuori dalla finestra. Il giovane cominciò a scendere lentamente i gradini, uno a uno. Nonostante la pesantezza dei due corpi, il soffio della bufera li faceva dondolare nel vuoto. Giunto all'ultimo scalino, Felton si lasciò penzolare, facendo forza sui polsi, e toccò terra. Si chinò, raccolse la borsa con l'oro e la strinse tra i denti. Poi sollevò Milady tra le braccia e si allontanò rapidamente. Scese attraverso le rocce e, giunto in riva al mare, fece udire un fischio. Gli rispose un segnale analogo e dopo 5 minuti apparve una barca con 4 uomini. La notte era delle più tenebrose. E già era quasi impossibile distinguere la riva dalla barca. A maggior ragione non si sarebbe potuto distinguere la barca dalla riva. Un punto nero dondolava sul mare. Era lo sloop. Mentre la barca procedeva con tutta la forza dei suoi 4 rematori, Felton spruzzò il volto di Milady con l'acqua del mare. Milady emise un sospiro e aprì gli occhi. Chiese: «Dove sono?» «Salva!» rispose il giovane ufficiale. «Ah, salva, salva!» esclamò. «Sì, ecco il cielo, ecco il mare. L'aria che respiro è quella della libertà. Grazie, Felton, grazie!» Il giovane la strinse al cuore. Milady volse gli occhi intorno. «È lì!» disse Felton, toccando con il piede la borsa piena d'oro. Ci si stava accostando allo sloop. Il marinaio di turno chiamò a voce alta la barca, che rispose. Milady chiese: Che bastimento è? Quello che ho noleggiato per voi? Dove mi condurrà? Dove vorrete? Purché prima facciate scendere me a Portsmouth. Che andate a fare a Portsmouth? Domandò Milady. A eseguire gli ordini di Lord Winter, disse Felton con un tetro sorriso. Quali ordini? Proprio non capite? No, spiegatevi, vi prego. Siccome diffidava di me, Lord Winter ha voluto sorvegliarvi di persona e mi ha mandato in sua vece a far firmare a Buckingham l'ordine della vostra deportazione. Ma se diffidava di voi, come mai vi ha affidato quell'ordine? Dovevo forse sapere di che cosa ero l'autore? Giusto. E andate a Portsmouth? Non ho tempo da perdere. Domani è il 23, Buckingham domani parte con la flotta. Parte domani per dove? Per la Rochelle. Non deve partire, esclamò Milady, dimenticando la sua abituale presenza di spirito. State tranquilla, rispose Felton. Non partirà. Milady trasalì di gioia. Aveva letto fino in fondo all'animo del giovane. La morte di Buckingham vi era scritta in tutte lettere. Felton disse, siete grande come Giuda Maccabeo. Se morrete, morrò con voi. Ecco tutto ciò che posso dirvi. Silenzio, disse Felton. Eccoci arrivati. Difatti la barca toccava lo sloop. Felton salì primo la scaletta e diede la mano a Milady mentre i marinai la sorreggevano perché il mare era ancora molto mosso. Un momento dopo erano sul ponte. Capitano, disse Felton, ecco la persona di cui vi ho parlato. Bisogna condurla sana e salva in Francia. Sborsando 1000 pistole, disse il capitano, ve ne ho date 500. Esatto, fece il capitano. E ecco le altre 500, aggiunse Milady portando la mano alla borsa. No, disse il capitano. Mantengo la parola che ho data a questo giovanotto. Le altre 500 pistole mi sono dovute soltanto all'arrivo a Boulogne e ci arriveremo sani e salvi, affermò il capitano. Com'è vero che mi chiamo Jack Butler? Se manterrete la parola, disse Milady, non vi darò 500, ma 1000 pistole. Urrà per voi, mia bella dama, gridò il capitano. E speriamo che Dio mi mandi molte clienti come vostra signoria. Intanto, disse Felton, conduceteci nella piccola baia di Chichester, di fronte a Portsmouth. Eravamo d'accordo che ci avreste condotto là, ve ne ricordate? Per tutta risposta il capitano ordinò la manovra necessaria e verso le 7 del mattino il piccolo bastimento gettava l'ancora nella baia indicata. Durante la traversata Felton aveva messo Milady al corrente di ogni cosa. Come, invece di recarsi a Londra, avesse noleggiato il bastimento, come fosse tornato indietro, come avesse scalato il muro collocando negli interstizi delle pietre vari ramponi per appoggiare i piedi e come, finalmente, arrivato alle sbarre, avesse fissato la scala. Milady conosceva il resto. Dal canto suo Milady cercò di incoraggiare Felton nel suo progetto, ma dalle prime parole che gli uscirono di bocca capì che il giovane fanatico aveva piuttosto bisogno di essere frenato che spronato. Fu deciso che Milady avrebbe aspettato Felton fino alle 10. Se a quell'ora non fosse stato di ritorno, sarebbe partita. Nel qual caso, se egli fosse stato libero di farlo, l'avrebbe raggiunta in Francia al convento delle Carmelitane di Béthune. Felton si congedò da Milady come un fratello che vada a fare una semplice passeggiata si congeda dalla sorella, baciandole la mano. Da tutta la sua persona traspariva la calma consueta. Soltanto negli occhi gli brillava una luce insolita, simile a un bagliore febbrile. La fronte era più pallida del solito. I denti erano serrati e i suoi discorsi, sbrigativi e bruschi, rivelavano che qualcosa di torbido si agitava nel suo petto. Finché fu sulla barca che lo conduceva a terra, stette con la faccia rivolta verso Milady, che, ritta sul ponte, lo seguiva con gli occhi. Erano entrambi quasi sicuri di non essere inseguiti, prima delle 9 nessuno entrava mai nella camera di Milady e occorrevano 3 ore per venire dal castello a Londra. Felton pose piede a terra, salì la breve cresta che conduceva al sommo della falesia, salutò un'ultima volta Milady e si diresse correndo verso la città. Dopo un centinaio di passi, essendo il terreno in discesa, dello sloop non poteva distinguere che l'albero. Corse subito in direzione di Portsmouth, di cui a circa mezzo miglio di distanza vedeva delinearsi davanti a sé nella nebbia mattutina le torri e le case. Oltre Portsmouth il mare era coperto di vascelli, i cui alberi, simili a una foresta di pioppi spogliati dall'inverno, oscillavano al soffio del vento. Durante quella rapida marcia, Felton riandava con la mente a tutte le accuse, vere o false, che 10 anni di meditazioni ascetiche e una lunga permanenza tra i puritani gli avevano suggerito contro Buckingham, il favorito di Giacomo VI e di Carlo I. La rapidità della corsa, poi, gli accendeva vie più il sangue. Il pensiero di lasciarsi alle spalle, esposta a una terribile vendetta, la donna che amava, anzi, che adorava come una santa, l'emozione passata, la fatica presente, tutto contribuiva a suscitare nel suo animo sentimenti più che umani. Verso le 8 del mattino entrò a Portsmouth. Tutti erano sulle mosse, rulli di tamburi per le vie al porto, le truppe d'imbarco scendevano verso il mare. Al palazzo dell'ammiragliato Felton giunse coperto di polvere e madido di sudore. Il viso, per solito così pallido, era paonazzo per il calore e per l'ira. La sentinella volle respingerlo, ma Felton chiamò il capoposto e, traendo di tasca la lettera di cui era l'autore, disse: «Messaggio urgente da parte di Lord Winter». A nome di Lord Winter, conosciuto come uno degli intimi di Sua Grazia, il capoposto diede l'ordine di lasciar passare Felton, il quale, per giunta, indossava l'uniforme di ufficiale di marina. Felton si precipitò nel palazzo. Nel momento in cui entrava nel vestibolo, anche un altro uomo entrava, impolverato, ansante. Lasciò alla porta un cavallo di posta che, appena arrivato, stramazzò sulle ginocchia. Felton e l'uomo si rivolsero contemporaneamente a Patrick, il cameriere di fiducia del duca. Felton fece il nome del barone De Winter. Lo sconosciuto non volle dire alcun nome e affermò che solo al duca poteva rivelare la sua identità. Entrambi insistevano per passare l'uno prima dell'altro. Patrick, il quale sapeva che Lord De Winter era in rapporti di servizio e di amicizia con il duca, diede la preferenza a quello che veniva a suo nome. L'altro fu obbligato ad aspettare ed apparve chiaramente quanto maledicesse quel ritardo. Il cameriere fece attraversare a Felton un'ampia sala e lo introdusse in un gabinetto dove Buckingham, appena uscito dal bagno, terminava la toeletta alla quale quel giorno, come sempre, dedicava una cura straordinaria. «Il luogotenente Felton», annunziò Patrick, «da parte di Lord Winter». «Da parte di Lord Winter», ripeté Buckingham. «Fate entrare». Felton entrò. In quel momento Buckingham buttava su un divano una sontuosa veste da camera di broccato d'oro per indossare un giustacuore di velluto azzurro ricamato di perle. «Perché il barone non è venuto di persona?» domandò Buckingham. «L'aspettavo stamane. Mi ha incaricato di dire a vostra grazia», rispose Felton, «che si rammaricava assai di non avere questo onore, ma che ne era impedito dalla sorveglianza che era costretto a fare al castello». «Sì, sì», disse Buckingham, «lo so. Ha una prigioniera. Appunto di questa prigioniera volevo parlare a vostra grazia», riprese Felton. «Parlate dunque. Ciò che ho da dire può essere ascoltato solo da voi, milord». «Lasciateci, Patrick», disse Buckingham, «ma tenetevi pronto a una chiamata, vi suonerò fra breve». Patrick uscì. «Siamo soli, signore», disse Buckingham. «Parlate». «Milord», disse Felton, «il barone De Winter vi ha scritto l'altro giorno per pregarvi di firmare un ordine di imbarco relativo a una giovane donna di nome Charlotte Buxton. Sì, signore. E gli ho risposto di portarmi o di inviarmi quell'ordine per la firma. Eccolo, milord. Date qua, disse il duca. E prendendolo dalle mani di Felton, diede al foglio una rapida scorsa. Vedendo che si trattava di quello annunziatogli, lo depose sul tavolo, prese una penna e si accinse a firmare. «Scusate, signore», disse Felton trattenendo il duca, «vostra grazia sa che il nome di Charlotte Backson non corrisponde al vero nome di quella giovane donna?» «Sì, signore, lo so», rispose il duca intingendo la penna nel calamaio. «Allora vostra grazia ne conosce il vero nome?» chiese Felton con voce secca. «Lo conosco». Il duca accostò la penna al foglio. Felton impallidì. «E conoscendo il vero nome», ripigliò Felton, «monsignore firmerà ugualmente?» «Certamente», affermò Buckingham. «E piuttosto due volte che una». «Non posso credere», continuò Felton con una voce che si faceva via via più secca e spezzata, «che sua grazia sappia che si tratta di Lady De Winter. Lo so benissimo, benché mi stupisca che lo sappiate voi, e vostra grazia firmerà quest'ordine senza rimorsi». Buckingham squadrò il giovane con alterigia. «Questa poi? Sapete, signore», gli disse, «che mi state facendo delle strane domande e che sono ben sciocco a rispondervi?» «Rispondete, monsignore», disse Felton, «la situazione è più grave, forse, di quanto non crediate». Buckingham pensò che il giovane, venendo da parte di Lord Winter, parlasse a suo nome e si raddolcì. «Senza ombra di rimorso», disse, «e il barone sa come me che grandi sono le colpe di Milady De Winter, e che è quasi farle una grazia limitare la sua pena alla deportazione». Il duca appoggiò la penna sul foglio. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it